80. Risotto alla milanese terzo. Potete scegliere. Eccovi un altro risotto alla milanese, ma senza la pretensione di prendere la mano ai cuochi ambrosiani, dotti e ingegnosi in questa materia. Riso grammi 300, burro grammi 50, un quarto di cipolla mezzana di grandezza, marsala, due dita di bicchiere comune, zafferano quanto basta. Rosolate la cipolla tritata fine con la metà del burro, versate il riso e dopo qualche minuto la marsala. Tirate la cottura col brodo e quando sarà cotto aggiungete il resto del burro e lo zafferano sciolto in un poco di brodo. Per ultimo un pugnello di parmigiano. Basta per 3 persone.